Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il nostro solito appuntamento con Ferry Boat per il nostro viaggio verso l'economia sociale. Oggi parliamo di beni culturali e beni culturali, economia sociale significa lavoro, significa impresa, significa un nuovo modo di concepire il più grande patrimonio che questo paese ha e che ci può assicurare un futuro importante. Sentiamo i titoli di questa settimana. Teatro o tempio, greco o romano, è arrivato il momento che passi di mano ai privati. La rivoluzionaria idea dell'assessore siciliano ai beni culturali, Armao. Anche questo è petrolio, ma bianco. Valore inestimabile, risorse disponibili sconfinate. Mercato planetario. È il turismo diffuso, pane per i denti dei giovani imprenditori. Una ricetta per salvare la musica lirica? Tre fondazioni al prezzo di una. Vedere Berlino per credere. Che bello parlare di templi, di teatri, di cultura, di musica, di petrolio bianco. Questa è una definizione molto bella di cui parleremo con uno scrittore, docente di management all'Università San Pio di Roma, Claudio Fava, ma intanto abbiamo in collegamento l'assessore Armao, Gaetano Armao. Buongiorno assessore. Buongiorno. Che ha il grato compito, certamente complesso, di lanciare questo progetto di privatizzazione della gestione dei beni culturali, che ha una serie di valenze, ma una, la principale forse, la vogliamo proporre, assessore, con questa clip. L'ascolti anche lei? Sì, grazie. Mamma mia, che vergogna, bravi! Bravi! Bravi! Complimenti! Noi il concerto non è attraversato dalla sovrintendenza. L'apertura del conto, come noto, la domenica è alle 18, quindi siete pregati di alzarvi e di mettere in grazie. E questa è era un video in realtà, solo che alla radio non potete gustarlo, ma fate il giro del mondo attraverso YouTube, in cui appunto questa ineffabile custode ha bloccato un concerto di altissimo spessore perché l'orario di chiusura non si poteva procrastinare. Assessore, è uno dei motivi per cui probabilmente lei sta lanciando questo progetto, è proprio quello di dare ai nostri beni culturali, quelli siciliani ma poi più in generale italiani, una gestione veramente di impresa imprenditoriale che libera le risorse anziché schiacciarle. Sì, sostanzialmente io ritengo, ma non è un dato mio, è un dato che emerge chiaramente dai numeri raccolti dalle statistiche che riguardano gli accessi, i biglietti, l'utilizzazione dei nostri siti archeologici, dei nostri musei, che la gestione pubblica sia arrivata al capolinea, nel senso che tutto quello che poteva esprimere spesso è stato un importante di gran livello, ma altrettanto spesso è di infimo livello, purtroppo non riesce più a essere coerente con le aspettative dei visitatori, con le aspettative dei turisti, con le aspettative di chi la cultura vuole frequentare in modo differenziato, in modo pieno. Ecco, lei a questo punto propone di prendere 87 fra musei e siti archeologici siciliani e di proporli alla gestione dei privati. Esatto, intanto diciamo, attraverso opportune integrazioni, è evidente che ci sono siti, musei o aree archeologiche che hanno una grandissima attrattività, pensiamo alla Valle dei Templi o al Teatro di Taormina, o pensiamo a Sergesta, Sedinunte, mentre altri siti o musei che magari sono meno attrattivi, quindi non si può andare caso per caso, ma occorre correlare i trattori, i siti e i musei di maggiore rilevanza, che possono, accoppiati con siti di minore attrattività, formare dei pacchetti integrali che possono essere offerti al mercato, ovviamente con le garanzie del caso, con la capacità dell'amministrazione pubblica di controllare e verificare, di individuare i biglietti, diciamo, il costo dei biglietti, orari di apertura e quant'altro. Quindi non c'è alcuna privatizzazione ipotizzata dei beni culturali, come qualcuno erroneamente, non so se per caso o per volontà, dice, ma c'è soltanto l'affidamento, il ricorso al partenariato pubblico-privato nella gestione dei beni culturali. Ecco, questo non è inventato niente, diciamo. Questa è una politica di livello europeo ed è che viene applicata non solo nei beni culturali ma anche in altri settori, ma che viene particolarmente raccomandata dal Consiglio d'Europa per i beni culturali e che peraltro fa parte degli assi entro cui si sviluppa l'intervento comunitario in Sicilia attraverso il programma operativo FESR di sviluppo regionale. Ci sono dei casi a cui lei può fare riferimento in questo percorso in Europa? Ci sono altre situazioni? Allora, diciamo, noi andiamo dai casi in cui il privato fa moltissimo, probabilmente gestisce tutto e il pubblico mette soltanto il bene, a casi invece in cui c'è una partnership, un partenariato vero e proprio, che postula che in ossequio al principio di sussidiarietà, che è un principio iscritto alla nostra Costituzione e che deve innervare i rapporti tra pubblico e privato, e al privato va offerto la possibilità di svolgere le sue attività nel modo più ampio possibile, e solo laddove i privati non riescono a svolgere attività che non sono prettamente pubbliche, quindi che sono anche, anzi, riconducibili ai privati, laddove i privati non riescono a svolgere queste attività, interviene il pubblico. Questo non affranca però, ci tengo a dirlo, il pubblico dalla sua capacità e dal suo obbligo di controllare e verificare che l'attività dei privati, laddove svolta, sia resa al meglio e nell'interesse. Anche per evitare che ci possano essere anche degli eccessi, forse, no? Quando si gestisce privatamente, certo, il pubblico è al di sopra delle parti. Che ci sono due eccessi che funzionano male. Uno lo viviamo certamente, che è quello dell'eccessiva presenza del pubblico, che porta a situazioni di abbandono o a situazioni paradossali come quella del Museo Albatellis qualche giorno fa qui a Palermo, che per fortuna abbiamo situazione che abbiamo eliminato, per cui la domenica i turisti provenienti da Mezzomondo attendevano di entrare in questo straordinario museo palermitano e le porte erano chiuse perché i custodi, invece che lavorare presso il museo, erano stati allocati presso gli uffici. Vabbè, purtroppo di queste storie ne leggiamo e sentiamo parlare tanto. Io vorrei farle ascoltare, perché l'abbiamo poco fa raggiunto perché si trovava fuori dal nostro paese, Leandro Ianni, che è d'Italia Nostra Sicilia, che fa sentire un po' il controcanto, diciamo, una voce contraria a questo suo progetto. La prego di ascoltare con noi per un minuto questa sua osservazione e poi le chiedo di commentarla. Intanto dobbiamo partire dall'articolo 9 della Costituzione, che prevede che lo Stato tutela e gestisce i beni culturali e ambientali, per cui c'è una trasgressione, una forzatura rispetto a questo articolo 9 della Costituzione. Quindi questo è il primo principio, è inderogabile. E questa è una questione di principio, diciamo, no? Una questione di principio. Dopo ci sono aspetti operativi, diciamo, invece, che secondo te... Dal punto di vista operativo, a nostro avviso, l'assessore Armao fa un'analisi giustamente dello stato, diciamo, della gestione attuale della gestione dei beni culturali in Sicilia, che presenta parecchie lacune, però non pone rimedio ai difetti, alle lacune del personale, all'organizzazione, cioè potenziando, rafforzando l'organizzazione interna pubblica regionale, ma, diciamo, aggira il problema con la privatizzazione dei siti, tra l'altro più importanti della Sicilia. Quindi, a nostro avviso, non è una risposta convincente e adeguata nel senso del rispetto dei principi dello Stato, insomma, del rispetto dei beni culturali e ambientali che appartengono a tutti, ma è un modo di vedere le cose che appartiene, insomma, ai principi più della mercificazione che del rispetto, appunto, delle leggi e dei valori culturali. Assessore, questa è l'osservazione, la sua replica brevissima a questa critica. Sì, brevissima, guardi, io insegno diritto amministrativo e mi vergognerei a dire una cosa in contrasto con la Costituzione. Evidentemente delle due l'una, o sono impazzito o purtroppo non sono riuscito a trasmettere esattamente quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare non è assolutamente la privatizzazione dei beni pubblici, cosa che prego di non evocare più perché sarebbe un errore marchiano. Noi non intendiamo a privatizzare alcunché. Dobbiamo coinvolgere i privati nella compartecipazione alla gestione dei siti. Questo non non assolve la pubblica amministrazione dal fare il massimo sforzo, come quello che stiamo cercando di fare, per rendere i siti e l'intervento della pubblica amministrazione del più elevato livello possibile. D'altronde lei sfonda una porta aperta, perché Ferribot è un programma che si occupa di responsabilità sociale dell'impresa e non facciamo altro che propagandare la capacità dell'impresa italiana, in generale dell'impresa, di gestire, di ottimizzare le risorse. Quindi chiaramente è questo l'obiettivo evidente che lei intende raggiungere. C'è una cosa però che nel suo, immagino, tour de force, nel suo road show, chiamiamolo così, per portare avanti questo progetto, c'è sicuramente più volte le è capitato di sentirsi citare il racket, la paura che l'imprenditore che arriva a sud per gestire con voi questi beni possa scontrarsi con questa dura realtà. In questi casi lei che cosa risponde? Guardi, il ruolo delle quelle che io chiamo le archeomafie in Sicilia è pesante. Non dimentichiamo che il grande Caravaggio di Palermo è stato trafugato dalla mafia, che si dice lo stendesse nelle riunioni della cupola. La mafia, a mio avviso, ha un ruolo importante in Sicilia nei trafugamenti di opere operate negli scavi abusivi e quant'altro. Quindi su questo, con i carabinieri che lavorano in Sicilia, col nucleo di tutela del patrimonio, stiamo facendo un lavoro di tolleranza zero su questo, per cui la Sicilia è una regione che ha introdotto, immagino la prima, ma certamente la regione che ha introdotto la costituzione di parte civile obbligatoria in tutti i casi in cui si accerti che ci sia stata una sottrazione di un bene culturale alla pubblica amministrazione. Quindi sotto questo profilo chiaramente la tolleranza è zero nei confronti di tutto questo tipo di attività. Per quanto riguarda la tutela dei privati, lo strumento che esiste e che in Sicilia ha trovato ampia applicazione e che vogliamo estendere anche ai beni culturali è lo strumento del protocollo. Di legalità, cioè sì, attraverso protocolli come quelli che Confindustria ha, anche in Calabria eccetera, abbiamo parlato di questo in questa trasmissione, i protocolli di legalità, attraverso la tutela continua da parte del pubblico nei confronti del privato impegnato, si può prevenire l'infiltrazione mafiosa o il condizionamento mafioso. Questo è certamente una priorità alla quale non intendiamo affrancarci in alcun modo. Grazie assessore, in bocca al lupo, perché ne ha proprio bisogno, un progetto importante, decisamente storico, e grazie di aver partecipato a Ferribot. Buon lavoro a tutti e spero che con Italia Nostra il dialogo potrà proseguire positivamente. Ferribot, in viaggio verso l'economia sociale. E questa puntata, questo viaggio che ci ha portato in Sicilia, che è una delle terre, ricordo, più ricche del mondo dal punto di vista architettonico e artistico, una vera e propria miniera. In questo caso però con il professor Claudio Fava, che è docente di management dell'Università San Pio V di Roma, che ha scritto un libro, Startup sulle imprese giovani, e che parla proprio di quello che lui definisce il petrolio bianco, un giacimento inesauribile da questo punto di vista la Sicilia, peccato però che non si riesca a sfruttare bene. Professore, buongiorno. Abbiamo sentito che l'assessore Gaetano Armau, l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana, sta portando avanti questo progetto di privatizzazione che non ha altro scopo che appunto cercare di sfruttare meglio questo giacimento. Lei, nel suo libro Startup, pubblicato da Egea Bocconi, lo definisce proprio petrolio bianco, si riferisce a quello italiano proprio. Sì, mi riferisco a quello italiano, ma volevo chiarire un attimo un po' di cose, perché ho capito che la privatizzazione è per la parte di gestione e ho capito che le grandi risorse della Sicilia, così come io so che lei ha visto anche gli articoli, ne ho parlato dell'Abruzzo, dovunque, io non intendo tanto le località come giacimenti di petrolio. Quello che voglio evidenziare e che viene fuori anche da tanti convegni a cui, diciamo, pongo questo problema e ho delle risposte immediate, è un fatto fondamentale. Petrolio perché? Perché ci vuole l'infrastruttura, cioè il petrolio arabo ha i gasdotti, le ferrovie dello Stato hanno i binari, la risorsa del turismo non ha una infrastruttura che sia degna di questo nome. Quindi quello che io dico è che, indipendentemente dalle grandissime, importantissime valorizzazioni della Sicilia, poi io in particolare ho una mamma di Enna, quindi conosce bene di quello di cui stiamo parlando. Di Parma, ecco, come ami la Sicilia, no? Lei dice sostanzialmente che il teatro greco di Taormina o di Siracusa, piuttosto che i templi di Agrigento, non sono un'infrastruttura, sono, come dire, il dato di fondo di un'impresa. Sono giacimenti. Le infrastrutture quali sono? Deve essere messo in rete. Quindi una rete che deve essere coordinata, anziché dare i soldi per salvare le varie località, perché quelli sono business dove i privati ce lo mettono, perché si fanno tanti micro project financing e questa è un'operazione che privatamente ha un senso, ed avendo un mercato il privato si trova. Poi se il privato è di buona qualità o di cattiva qualità, come a volte può succedere in alcune aree per effetti ambientali, questo è un altro paio di maniche, ma quello che serve, che dovrebbe fare la pubblica amministrazione in tempi rapidi, è l'infrastruttura, cioè codificare tutte queste varie categorie di impianti nel settore turismo, agriturismo, turismo diffuso e quant'altro, in modo tale che siano degne di essere messe su una rete che è quella che fa da aggregatore della domanda. Quindi la pubblica amministrazione, la responsabilità che deve avere è quella di creare la possibilità di consentire che questa infrastruttura faccia uscire le richieste per poter accogliere le domande. E su questo mi pare che ci sia molto, molto da fare. Perché lei lo definisce turismo diffuso e fra l'altro nel sommario lo abbiamo citato come pane per i denti dei giovani imprenditori? Cosa vuol dire turismo diffuso? Sta venendo fuori abbastanza da diverse aree. In effetti è il turismo di chi ha anche un ristorante in una piccola località qualsiasi. E che cosa può fare? Lui può collegare tutte le persone, anche anziane, i casali abbandonati che ha intorno, e quindi fa una specie di albergo senza avere l'edificio. Quindi raccoglie le domande di pernottamento, di soggiorno delle persone che, con le quali ha fatto degli accordi, e dal suo piccolo centro trasforma il ristorante in un piccolo tourist office dove praticamente permette alle persone che vanno al ristorante o che usano la sua azienda come baricentro di una conoscenza di una realtà territoriale locale che sicuramente ha più di altri, per poter, diciamo così, offrire diverse soluzioni. A lei sa come si sta sviluppando nel mondo lo scambio casa. In effetti non è uno scambio casa, ma ci assomiglia molto. Invece di andare nel solito albergo, perché anche a Roma dove io vivo la gente dopo 7-8 volte che viene a Roma, non basta, vuole conoscere meglio l'Italia, perché noi ci facciamo del male da soli, ma nel mondo apprezzano molto la qualità di come noi viviamo, la nostra storia, la nostra archeologia, la nostra architettura, cioè tutti i plus che per noi sono scontati, per molti paesi e per molti turismi emergenti, parlo addirittura del Brasile, oltre che della Russia e dell'India, vengono qui per sapere come viviamo noi, perché a loro piace questo nostro modo di coniugare la parte, diciamo così, umanistica con la parte imprenditoriale ed economica. Naturalmente che noi sappiamo benissimo in quali difficoltà ci troviamo, però non ci dimentichiamo che un'operazione di questo genere potrebbe in prospettiva, sapendolo già dall'inizio, potrebbe, diciamo così, addirittura assorbire quelle eventuali espulsioni che dovessero venire fuori dalle grandi industrie nei prossimi 5 anni. Grazie professore, lo interrompo, l'ho lasciata parlare perché lei dice delle cose che sono, come dire, musica per le nostre orecchie. Indubbiamente è un problema che forse non si affronta e si risolve con una semplice privatizzazione delle gestioni, della gestione dei beni culturali, ma indubbiamente è una mentalità diffusa anche qui che questo paese dovrebbe costruire per poter sfruttare la risorsa più importante e decisiva che ha. Professore, la ringrazio di aver partecipato, parleremo ancora con lei delle imprese del suo libro Startup, edito da Egea Bocconi. Grazie professore, arrivederci. A proposito di beni culturali, adesso il nostro prossimo ospite a bordo, ve lo presentiamo subito dopo un'altra clip che ci introduce nell'argomento. We'll be right back. questo è un patrimonio artistico, chi lo mette in discussione? Forse lo fa Tiziano Scarpa, anzi sicuramente lo fa Tiziano Scarpa, lo scrittore premio Strega con Stabat, che in un'intervista al Corriere dice che la lirica è una sciagura, che basta, non se ne può più, che bisogna congedarsi, che non ha più senso farla. Ma invece, secondo i dati che sono in possesso del Ministero, invece l'Italia, oltre che aver inventato l'opera lirica, ha davvero dei numeri importanti, perché la musica lirica è un patrimonio assolutamente vitale. La professoressa Paola Fandella lo pensa sicuramente. Lei, buongiorno professoressa. Buongiorno. È responsabile del corso di laurea in gestione dei beni culturali dell'Università Cattolica, ma ha scritto anche un libro proprio sulla lirica e ha un modello da proporre, non solo per salvarla dai minacciosi dalle minacciose interviste, ma anche per valorizzarla. Sì, in effetti io non ho scritto proprio un libro sulla lirica, non oserei, ho scritto un libro sulle produzioni liriche. Sì, sì. Perché? Perché in effetti penso che la lirica sia un patrimonio unico, inestimabile nel nostro paese. Infatti sono un po' tristi le parole dello scrittore Tiziano Scarpa, perché non sono nate nel nostro paese, ma perché dietro la lirica c'è un mondo, un patrimonio di lavoro e di maestri d'arte che è unico e che in effetti tutto il resto del mondo ci invidia. La sua proposta è di ottimizzazione delle risorse e poi usa un termine che ci piace molto come idea, che è quello dell'autodisciplina, della gestione autodisciplinata. In due battute, come funziona questo modello? Sì, io presento e ho pensato un modello di valorizzazione fondamentalmente dei cosiddetti asset tangibili di una produzione lirica, cioè le scenografie e i costumi. In genere le scenografie e i costumi sono prodotti da un teatro, forse in alcuni casi, soprattutto nelle ristrettezze finanziarie attuali, sono prodotti da due o tre teatri, cioè sono prodotti in coproduzione, però poi vanno a finire nei magazzini, a volte vengono riprese più volte, ma hanno una gestione interna a teatro. Allora io cosa cerco di proporre? Un modello di negoziazione di queste scenografie, di questi costumi, in modo tale che tutti questi asset meravigliosi, perché dico veramente sono creati da maestri di eccellenza nelle varie attività, possano essere non solo oggetto di apprezzamento culturale per le persone che possono andare negli spettacoli, nei vari teatri, ma possono essere addirittura rivalorizzati nel tempo, perché possono essere oggetto di vendita, di scambio, come una vera attività artistica, un quadro o quant'altro che viene proposto in un'asta, per cui di fatto quella scenografia o quel costume allontana il rischio di obsolescenza, no? Perché il rischio che sarebbe proprio di un teatro, e se fosse mantenuto in un solo teatro, perché se noi rivediamo la stessa scenografia 20 volte poi giustamente ci stanchiamo, ma siccome viene riproposto in un circuito, quindi può essere con pubblico diverso, eccetera, esatto, lei può dice. Essere comprato anche, per dire, da un teatro savogliano piuttosto che da un teatro dell'Europa dell'Est e quant'altro, quindi di fatto la sua vita si allunga e anzi si incrementa la sua valorizzazione, perché appunto come un'opera d'arte il pedigree dei vari teatri in cui è stato di fatto implica che è stato apprezzato da vari spettatori, da vari pubblici e quant'altro. Questo lavoro, dobbiamo concludere, peccato, ma cercheremo di parlarne ancora di questo lavoro di coordinamento, e chi spetta all'ente pubblico, al Ministero? Io oserei proporre una società di gestione tra pubblico, che sia gestita appunto tra l'ente pubblico e fondazione artistica, in modo tale che comunque il Ministero, il pubblico funga sempre da garante, ma che abbia comunque anche una propulsione sempre dalle fondazioni, che sono le parti più attive in questo mercato, che sicuramente hanno più il senso delle produzioni. Grazie di aver partecipato la professoressa Fandella, buona giornata. Anche a lei, buon pomeriggio. Noi chiudiamo con il nostro viaggio culturale. Oggi è stata una puntata nobile, di questo ringraziamo anche Anita Panizza in redazione e in regia Fabio Cantadori. Vi ricordo che è su www.radio24.it è possibile riascoltare questa e le altre trasmissioni. Saluti dal traghettatore Insargante, alla prossima puntata.